Capitolo 52. Il calesse mi raggiunse infine e una volta salito a bordo chiese al cocchiere di portarmi a Grassdale Manor. Ero troppo distratto per guidarlo da solo. Avrei finalmente incontrato la signora Huntington, senza che ci fosse più nulla di male ora che il marito era morto da oltre un anno, e dall'indifferenza o la gioia del suo volto avrei capito subito se il suo cuore fosse ancora mio. Il mio compagno era un uomo piuttosto chiacchierone e non sembrava avere intenzione di lasciarmi pensare in pace. «Eccoli», disse vedendo passare le carrozze, «ne combineranno delle belle lassù oggi, e poi domani si vedrà. Conoscete la famiglia, signore, o non siete di queste parti?» «Li conosco di nome. Ma cosa volete che vi dica? Le migliori se ne sono andate, e adesso anche la vecchia se ne andrà, libera di godersi i suoi averi. La giovane, invece, cioè la nuova, che tanto giovane non è, verrà a stare al Grove. Il signor Hargrave si è sposato, dunque?» «Sì, da qualche mese ormai. Si sarebbe dovuto sposare già tempo fa con una vedova, ma non riuscivano a mettersi d'accordo sui soldi. Lei aveva un bel gruzzolo, e il signor Hargrave l'avrebbe voluto tutto per sé, mentre lei non ci pensava affatto. Così hanno litigato. Quella di adesso non è tanto ricca né bella, ma non è mai stata sposata. Dicono che sia molto semplice, abbia sui 40 anni. Avrà pensato bene di approfittare di questa occasione perché rischiava di non averne un'altra. E poi un marito così bello e giovane valeva di certo le sue ricchezze, che se le prendesse pure. Invece penso che si pentirà presto dell'affare. A quanto pare già si lamenta che lui non sia poi un marito tanto bravo e generoso come se lo immaginava, che già comincia a fare il prepotente, e non farà che peggiorare se non sta attenta. Ah, sembra che lo conosciate bene. Come no? Lo conosco da quando era un ragazzo, presuntuoso e testardo. Ho lavorato come domestico in quella casa per molti anni, ma erano troppo spilorci, soprattutto lei, sempre a ritagliare, rosicchiare, e dopo un po' ho deciso di cercarmi un altro posto. Poi si mise a raccontarmi del suo attuale impiego come stalliere a Rose and Crown e di quanto fosse migliore rispetto al precedente, per la comodità e la libertà, sebbene non altrettanto rispettabile. Mi rivelò alcuni dettagli dell'amministrazione domestica al Grove e mi parlò del carattere della signora Hargrave e di suo figlio, ma non gli prestai troppa attenzione, dato che ero preso dall'impazienza per quel che mi attendeva e avevo notato che la campagna attorno a noi, malgrado gli alberi ancora spogli e il terreno innevato, da qualche minuto sembrava proprio il paesaggio tipico di una proprietà privata. «Siamo quasi arrivati?» domandai interrompendo bruscamente il suo discorso. «Oh, sì, ecco la casa, laggiù». Sentì un tuffo al cuore nel vedere infine la grande villa al centro di quel grande parco, magnifico ora che era vestito d'inverno, come poteva esserlo senza dubbio nella gloria estiva. Un'ampia distesa e poi un dolce pendio immacolato, eccetto che per la pista che dovevano avervi lasciato dei cervi, grandi alberi con i rami carichi di neve che si stagliavano contro un cielo grigio, e dopo il bosco fitto una distesa d'acqua ghiacciata che pareva addormentata con sopra i rami del frassino e del salice piangente. Nel complesso un'immagine splendida e piacevole per una mente serena, ma ben poco incoraggiante per me in quel momento. La mia consolazione era il pensiero che tutto quello fosse stato lasciato in eredità al piccolo Arthur e che non sarebbe mai potuto essere teoricamente di sua madre. Ma la situazione di Ellen qual era, quindi? Superai la mia reticenza e non senza sforzo domandai al mio compagno se sapesse qualcosa dell'eredità. Sì, sapeva tutto e me ne informò con grande sollecitudine. Le era stata lasciata in eredità la conduzione e la gestione della proprietà finché suo figlio non fosse stato maggiorenne, oltre alla sua dote, ma sapevo che suo padre non le aveva dato molto, e alla piccola somma che le era stata regalata prima del matrimonio. Non aveva ancora finito di raccontarmi tutto che già eravamo al cancello, al momento più importante di tutti, per me, sempre che lei fosse a casa e non a Stanningley. Suo fratello, infatti, non mi aveva dato modo di pensare il contrario. Domandai se la signora era in casa. Mi risposero di no, che si trovava con sua zia, ma che sarebbe tornata prima di Natale. Passava la maggior parte del tempo a Stanningley, mi dissero. recandosi a Grasdale solo quando la gestione della proprietà lo rendeva necessario. «Qual è la città più vicina a Stanningley?» domandai, e mi risposero subito. «Ebbene, mio caro, qui le redini. Farò colazione a Rose and Crown e poi via, in carrozza, verso Stanningley.» «Non riuscirete certo ad arrivarci entro oggi, signore.» «Non ha importanza che ci arrivi oggi. Mi va bene anche arrivarci domani, passando la notte in viaggio.» «Volete dire in una locanda, signore? Ma allora vi converrà fermarvi da noi e partire domattina fresco e riposato, con la giornata a disposizione per il viaggio.» «Ma perderai 12 ore? Impossibile!» «Siete un parente della signora Huntington?» mi chiese allora, per gratificare la curiosità, dato che la cupidigia era rimasta delusa. «Non ho questo privilegio.» «Capisco», disse adocchiando infine i miei pantaloni infangati e il mio giaccone modesto. «Sebbene molte signore altrettanto belle abbiano parenti più poveri di voi, signore.» «Ah, non c'è dubbio, così come tanti gentiluomini sarebbero felici di poter vantare una parentela con la signora.» A quel punto mi guardò con malizia. «Signore, forse voi volete...» Indovinai cosa volesse chiedermi, scoraggiai la sua insolenza con un «Volete star zitto, un momento? Sono occupato.» «Occupato?» «Sì, occupato a pensare, e non desidero che le mie riflessioni siano disturbate.» «Come volete, signore.» Avrei capito che tutto sommato la delusione non mi aveva avvilito più di tanto. In caso contrario, non penso che sarei stato in grado di sopportare la sfacciataggine di quell'uomo. Pensai che fosse un bene non averla trovata quel giorno. Avrei avuto del tempo in più per prepararmi all'incontro e a un'eventuale peggiore delusione, dopo il sollievo provato nel liberarmi di colpo delle mie precedenti angosce. Oltre al fatto che, dopo un viaggio lungo una notte e un giorno e una corsa di 6 miglia a piedi in campagna, non si poteva dire che fossi proprio presentabile. Una volta a Rose and Crown, prima che la mia carrozza partisse, ebbi il tempo di riprendermi, grazie a un'abbondante colazione e alle mie abituali abluzioni mattutine. Scrissi anche 2 righe a mia madre. Che bravo figlio ero, eh? Per dirle che ero vivo e stavo bene e che mi dispiaceva di non essere riuscito a tornare per l'ora in cui mi aspettava. Il viaggio fino a Stanningley era lungo, anche considerando che in quei giorni il trasporto era reso difficile. Ma feci diverse soste per riposare e mangiare e mi fermai a passare la notte in una locanda strada facendo. In questo modo, se da una parte mi concedevo un breve riposo, dall'altra ero sicuro di non arrivare esausto, abbrutito e consumato al cospetto della mia amica e di sua zia, che sarebbero rimaste comunque sorprese di vedermi. Il mattino dopo, quindi, mi concessi un'abbondante colazione per rinvigorirmi e dedicai particolare attenzione all'abbigliamento, dato che mi ero portato dietro un cambio. Abiti ben puliti, stivali lucidi e guanti puliti. Fu in questo modo che salii a bordo del Fulmine e mi rimisi in viaggio. Mi dissero che ci restavano da superare ancora 2 tappe prima che la carrozza passasse vicino a Stanningley. Così, dopo aver chiesto che mi facessero scendere il più possibile vicino alla casa, non mi restò altro da fare che mettermi a rimuginare per un'intera ora. Era un mattino pulito e gelido. Me ne stavo in cima alla carrozza a godere di quel paesaggio innevato e di quel cielo limpido, con l'aria fresca nei polmoni e lo scricchiolio della neve ghiacciata sotto le ruote. Abbastanza piacevole, si direbbe, ma ricorda la meta verso cui ero diretto e chi stavo per incontrare. E potrai farti un'idea di quale fosse il mio stato d'animo in quel momento. Eppure il mio cuore era colmo di gioia e il mio spirito volava alto, ai limiti della pazzia, malgrado la prudenza mi suggerisse di restare con i piedi a terra, ricordandomi la differenza di rango tra Helen e me, le traversie che aveva passato dall'ultima volta che l'avevo vista, il suo lungo silenzio e quella zia severa e diffidente, le cui raccomandazioni non avrebbero facilmente respinto una seconda volta. Erano riflessioni queste che mi mettevano addosso una certa agitazione e l'ansia di voler superare lo stallo al più presto, ma non oscuravano l'immagine che serbavo di lei nella memoria, né il ricordo di tutto quello che ci eravamo detti e che avevamo provato l'uno per l'altra, né riuscivano a infrangere il sogno di quel che avremmo potuto vivere. Non potevo permettermi di entrare nel panico e, grazie al cielo, verso la fine del mio viaggio, 2 degli altri passeggeri mi vennero in soccorso per riportarmi con i piedi per terra. Gran bei terreni, disse uno, indicando con la punta dell'ombrello i vasti campi sulla destra, con le numerose file di siepi e fossati e gli alti alberi che crescevano attorno ai recinti. Saranno davvero belli, sia in estate che in primavera. Sì, sì, disse l'altro, un anziano dall'aria piuttosto brusca. Devono essere del vecchio Maxwell, no? Un tempo, signore, ora lui è morto e ha lasciato tutto alla nipote. Tutto quanto. Ogni singolo acro, più la casa, tutto quello che possedeva, insomma, a parte una sciocchezza per il nipote e un mantenimento per la moglie. Strano? Proprio così. Ed era una nipote acquisita, per giunta, perché lui non aveva parenti suoi, a parte un nipote con cui ha litigato molto tempo fa. Ha sempre mostrato una certa predilezione per la ragazza, e dicono che la moglie lo abbia consigliato ad agire così, a quanto pare avendo lei stessa contribuito in gran parte a questa proprietà. Voleva che il tutto passasse alla nipote. Sarà un buon partito, allora. Poco, ma sicuro. È vedova, ma è ancora giovane, piuttosto affascinante. Possiede una sua ricchezza e ha un figlio solo, per conto del quale amministra una proprietà. Quindi è decisamente un buon partito. Ma non credo ci siano speranze per tipi come noi. E così dicendo diede una leggera gomitata a me e una al suo amico. Spero di non averla offesa, signore, rivolgendosi a me. Credo che finirà per sposare un nobile. Guardate, disse infine rivolgendosi all'amico e indicando nuovamente con la punta dell'ombrello. Quella lì è la casa, e tutt'intorno il parco pieno di boschi, con un bel po' di legna e selvaggina, e... Ma che succede? Esclamò quando la carrozza si fermò davanti al cancello d'ingresso nel parco. Chi doveva scendere a Staningley Hall? Chiamò il cocchiere. Mi alzai, lanciai di sotto il mio sacco da viaggio e mi preparai a saltar giù. Vi sentite bene, signore? Mi chiese il passeggero chiacchierone guardandomi in faccia, che in effetti doveva essere piuttosto pallida. Sì, sì. Ecco a voi, cocchiere. Vi ringrazio, signore. Si parte! Il postiglione prese i soldi e riprese la corsa, lasciandomi lì. Invece di entrare e proseguire attraversando il parco, restai a camminare davanti al cancello, avanti e indietro, a braccia conserte e con lo sguardo a terra. Ero turbato da una impressionante quantità di immagini e pensieri da cui non riusciva a emergere nulla di distinto, eccetto che avevo coltivato il mio amore invano. Ogni speranza era perduta e avrei fatto meglio a soffocare ogni altra illusione su di lei, considerarla come il residuo di un sogno impossibile. Mi sarei fermato ancora e a lungo nella speranza di vederla anche solo da lontano prima di andarmene, ma non potevo permetterlo. Non doveva vedermi, perché cos'altro poteva avermi condotto lì se non il desiderio di ritrovare il suo affetto per poter chiedere la sua mano. Potevo sopportare che lei mi credesse capace di un simile gesto, o approfittarmi della sua fiducia, dell'amore, anche forse accidentale, o che le avevo imposto senza che lei lo volesse davvero, quando era ancora una fuggiasca, una donna che si manteneva con il suo lavoro, senza patrimonio, né famiglia, né amici, per incontrarla ora nel suo vero ambiente e avanzare le mie pretese. Quando poi, come se non bastasse, c'eravamo salutati 16 mesi prima e lei mi aveva chiaramente detto di non coltivare la speranza che ci potessimo ritrovare in questa vita e coerentemente non mi aveva mai scritto neppure una riga da quel giorno. No, solo l'idea mi era insopportabile. Ammesso che anche lei provasse ancora dei sentimenti per me, era giusto risvegliarli e turbare così la sua quiete, forzarla a un conflitto tra dovere e sentimento. Da qualunque lato la spingesse il secondo o la forzasse il primo, che lei ritenesse di dover rischiare il biasimo e la censura della società, l'amarezza e il dispiacere delle persone a cui voleva bene, per una romantica idea di verità e costanza nei miei confronti, o che si sentisse in dovere di sacrificare i suoi desideri personali per rispettare i sentimenti degli amici e il suo senso di misura e convenienza. No, non l'avrei fatto. Me ne sarei andato immediatamente e lei non avrebbe mai saputo che ero arrivato lì, perché anche se fossi riuscito a negare di esserci andato per chiedere la sua mano o di aspirare a diventare suo amico, la sua quiete non doveva essere turbata dalla mia presenza, né il suo cuore avvilirsi a causa della mia fedeltà. Adieu, cara Helen, per sempre adieu. Così dissi, senza riuscire di fatto ad allontanarmi. Dopo qualche passo, mi voltai a guardare un'ultima volta la villa per imprimermi nella memoria il suo aspetto esterno al pari dell'immagine di chi, ahimè, non avrei più visto. Ancora qualche passo, e di nuovo mi fermai con la schiena appoggiata contro un vecchio albero cresciuto lungo la strada, perso nelle mie malinconie. Capitolo 53. Mentre ero lì, distratto dai miei cupi pensieri, ecco svoltare dall'angolo una carrozza. Se mi avesse superato procedendo lungo la strada, non mi sarei neppure accorto del suo passaggio, ma una piccola voce dall'interno mi ridestò dalle mie meditazioni. Mamma, mamma, c'è il signor Markham! Non sentii la risposta, ma la stessa vocina che poco dopo ripeté. Davvero, mamma, guarda! Non sollevai lo sguardo, ma capii che la mamma stava in effetti guardando, perché udii una voce limpida e melodiosa che subito mi diede un brivido, esclamare: Oh, zia, c'è il signor Markham, l'amico di Arthur. Richard, fermati. C'era nella sua voce un'eccitazione, una gioia, in particolare nelle prime tremule parole Oh, zia, che mi fece sussultare. La carrozza si fermò e alzando lo sguardo vidi il volto pallido di un'anziana signora che mi guardava seria dal finestrino. Mi fece un cenno che ricambiai e poi si fece indietro mentre Arthur chiedeva a gran voce che lo facessero scendere. Nel frattempo, dal finestrino spuntò silenziosamente una mano. La riconobbi, anche se avvolta in un guanto nero che ne copriva il delicato pallore e le armoniose proporzioni. La strinsi velocemente nella mia, con passione, anche se per un solo istante, poi la lasciai andare e fu subito ritirata. Stavate venendo proprio da noi o passavate di qua? Mi domandò la voce della proprietaria, che sicuramente stava scrutandomi da dietro il velo nero che le copriva il volto. Io ero qui per vedere il posto, risposi incerto. Il posto? Ripeté lei più delusa che sorpresa. Non entrate dunque? Se volete. Ne dubitate? Ma sì, deve entrare, gridò Arthur facendo il giro della carrozza e venendo a prendermi la mano. Vi ricordate di me, signore? Oh sì, benissimo, ragazzo mio, anche se sei cambiato molto, risposi guardandolo, così alto e magro e somigliante a sua madre nei lineamenti, malgrado gli occhi chiarissimi che scintillavano di felicità sotto i pochi riccioli biondi che spuntavano dal cappello. Non mi trovate? È cresciuto? Chiese tirandosi il più possibile dritto con la schiena. Cresciuto, dici? Almeno 5 centimetri. Ho compiuto 7 anni, mi rispose orgoglioso. Ancora 7 anni e poi sarò alto come voi. Arthur, digli di entrare. Richard, va pure avanti, disse la madre. Mi era parso di sentire una nota di tristezza e non solo freddezza nella sua voce, sebbene non sapessi da cosa dipendesse. La carrozza ripartì e superò il cancello. Il mio giovane amico mi guidò attraverso il parco senza mai smettere di parlare per tutto il tempo. Una volta giunti all'ingresso della villa, mi fermai sulle scale per ritrovare un po' di lucidità e ricordarmi quali erano state le mie ultime decisioni e su cosa le avevo basate, e solo dopo che Arthur mi ebbe tirato per la giacca diverse volte, accettai il suo invito a entrare in casa e raggiungere le signore. Helen mi guardò entrare, osservandomi con garbo e serietà. Mi chiese notizie di Rose e di mia madre e io risposi educatamente alle sue domande. La signora Maxwell mi invitò a sedermi e commentò che era una mattina fredda in cui immaginava non avessi viaggiato molto. Oh, meno di 20 miglia, signora. Non a piedi, spero. No, in carrozza. C'è Rachel, signore, mi disse Arthur, che tra noi era l'unico a essere completamente felice, indicandomi quell'ottima donna che era appena entrata nella stanza a prendere gli effetti della sua padrona. Vedendomi, mi accennò un sorriso di riconoscimento che apprezzai e ricambiai. Doveva essersi accorta del suo iniziale errore di valutazione nei miei confronti. Una volta spogliata del cappello da lutto e del pesante soprabito, Helen mi apparve talmente uguale a come era sempre stata che non sapevo come resisterle. Ero felice di vedere i suoi capelli scuri ancora belli e forti come prima. Mamma si è tolta il lutto in occasione del matrimonio dello zio, disse Arthur prontamente, interpretando con la semplicità tipica dei bambini la mia espressione. Sua madre rimase seria, mentre la signora Maxwell scosse la testa. Invece la zia Maxwell non se lo toglierà mai, disse ancora la piccola canaglia. Poi, vedendo che la sua impertinenza intristiva davvero la zia, si avvicinò a metterle un braccio attorno al collo e darle un bacio sulla guancia, prima di spostarsi a giocare tranquillo col suo cane nel vano di un'ampia finestra. Intanto, la signora Maxwell conversava con me su argomenti quali il tempo, le stagioni, le strade. Giudicai che la sua presenza in quel momento fosse molto utile a frenare i miei impulsi naturali e tumultuosi, che mi avrebbero altrimenti trasportato contro ogni possibile ragionevolezza e contro la mia volontà. Eppure trovavo questi limiti al tempo stesso insopportabili, e fu solo con molto sforzo che riuscii a seguire i suoi ragionamenti, rispondendo con garbo e sapendo che Helen era a pochi passi da me vicino al fuoco. Non osavo girarmi a guardarla, ma sentivo che lei mi stava osservando, e da una fugace occhiata mi parve di vedere che aveva il viso lievemente arrossato e tormentava la catena del suo orologio con le dita, un chiaro segno di eccitazione. Ditemi, mi chiese infine, approfittando di una pausa nella goffa conversazione tra sua zia e me, rivolgendosi a me con gli occhi bassi, senza smettere di rigirarsi la catenina tra le dita. Come vanno le cose a Lindenhope? È successo qualcosa da quando vi ho lasciati? Non direi. Non è morto nessuno? Nessuno si è sposato? No. E nessuno sta per sposarsi? Nessuno si è separato o ha trovato nuovi legami? Nessun vecchio amico dimenticato o sostituito? Pronunciò l'ultima frase a voce così bassa che solo io avrei potuto coglierne le parole. Eppure lo fece sollevando gli occhi su di me con un lieve sorriso, una malinconica dolcezza e uno sguardo timido e indagatore che mi fecero tremare le guance di un'emozione indescrivibile. Direi di no, le dissi. No, se gli altri sono cambiati poco come me. La vidi arrossire in accordo con quanto stava accadendo a me. E davvero non volevate venire a trovarci, quindi? Non volevo importunarvi. Importunarci? Esclamò lei con una certa impazienza. Cosa? Ma d'improvviso si interruppe ricordandosi della presenza di sua zia. Zia, quest'uomo è un buon amico di mio fratello, è stato un buon conoscente anche per me, sebbene per un breve periodo, e un ottimo compagno per mio figlio. Poi gli capita di passare accanto a casa nostra, così lontana dalla sua, e non si fa vivo per paura di importunarci? Il signor Markham è sin troppo discreto, commentò la signora Maxwell. Troppo formale, direi, aggiunse la nipote. Troppo. Beh, non è importante. E detto questo, si allontanò. Prese posto su una sedia accanto al tavolo e iniziò a sfogliare un libro. Se avessi pensato che mi concedevate il privilegio di ritenermi un vostro buon conoscente, sicuramente non mi sarei trattenuto dal farvi visita, ma credevo che vi foste da tempo scordata di me. Avete giudicato gli altri sulla base di voi stesso? Rispose a bassa voce, senza alzare gli occhi dal libro, visibilmente arrossita e girando anche una dozzina di pagine per volta. Arthur approfittò di questa pausa per farmi vedere il suo setter e mostrarmi come fosse cresciuto nel frattempo e per chiedermi notizie di suo padre, il mio Sancho. La signora Maxwell si congedò per andare a cambiarsi e Helen, messo via il libro, restò a guardare qualche istante il figlio, il suo amico e il cane e poi chiese al primo di uscire con la scusa di mandarlo a prendere un nuovo libro che avrebbe potuto mostrarmi. Il piccolo obbedì ed io restai ad accarezzare il cane. E sarei rimasto in silenzio fino al ritorno di Arthur, se fosse dipeso da me. Invece, dopo qualche secondo, la mia ospite si alzò energica dalla sedia e tornò in piedi tra me e il camino e mi domandò: Gilbert, cosa è successo? Perché sei tanto cambiato? So che si tratta di una domanda indiscreta e forse inopportuna, aggiunse, e se preferisci puoi anche non rispondermi, ma io odio i segreti. Non sono affatto cambiato, Helen. Sono lo stesso uomo palpitante e appassionato che ero. Sono le circostanze a essere diverse, non io. Ma quali? Parla, ti prego. Era improvvisamente impallidita per la preoccupazione. Temeva forse che avessi promesso a qualcun altro la mia fedeltà. Ebbene, te lo dirò, risposi. Ti confesso di essere arrivato fin qui per incontrarti, pur con l'angoscia che fosse un gesto presuntuoso da parte mia e con la paura di non ricevere una buona accoglienza, ma ignoravo che questa proprietà fosse tua finché i due compagni di viaggio non mi hanno illuminato sulla tua situazione patrimoniale. A quel punto la follia delle mie speranze mi è stata chiara come non mai. Sono sceso davanti al tuo cancello determinato a non entrare. Ho indugiato ancora qualche minuto per guardarmi attorno, deciso a fare ritorno a casa mia senza incontrare la proprietaria. Quindi, se la zia ed io non fossimo passati di lì in quel momento, per caso, di ritorno dalla nostra uscita mattutina, non ti avrei rivisto mai più? Ritenevo fosse giusto per entrambi così, ho risposto con calma, cercando tuttavia di tenere bassa la voce perché ero consapevole che non sarei riuscito a tenerla ferma, né osavo guardare Helen dritta negli occhi, per timore che la mia risolutezza mi abbandonasse. Mi sono detto che vedermi avrebbe solo guastato la tua pace e condotto me alla follia, eppure ora sono felice di aver avuto l'occasione di vederti ancora, sapere che non mi hai dimenticato e poterti dire che io ti ricorderò per sempre. Seguì un lungo silenzio. La signora Huntington andò alla finestra. Stava forse cercando un modo gentile per respingermi senza ferire i miei sentimenti? Di colpo si girò verso di me e riprese a parlare. Per quel che riguarda me, intendo dire sul fatto di potermi dire che mi ricorderai per sempre, beh, avresti potuto farlo anche prima, ad esempio scrivendomi. Avrei voluto farlo, ma non conoscevo il tuo indirizzo, né volevo domandarlo a tuo fratello perché temevo che si sarebbe opposto. Certo, questi timori non mi avrebbero trattenuto se fossi stato certo che aspettavi mie notizie. Il tuo silenzio mi ha fatto credere che mi avessi dimenticato. Mi stai dicendo che ti aspettavi che fossi io a scriverti? No, Helen, signora Huntington, certamente no, le risposi arrossendo per l'implicazione, ma se tu mi avessi mandato anche solo un messaggio attraverso tuo fratello, o magari gli avessi chiesto mie notizie ogni tanto. Ho chiesto spesso tue notizie, ma non volevo esagerare, disse con un sorriso, considerando che sembrava ti interessasse solo la mia salute. Ah, tuo fratello non mi ha mai neppure accennato a questo. Ma tu glielo hai mai chiesto? No, avevo capito che non gli garbava che gli facessi troppe domande su di te e che non voleva in alcun modo incoraggiare i miei sentimenti. Helen rimase in silenzio. E aveva ragione, dissi infine. Lei continuò a fissare il parco innevato dalla finestra. Ora la solleverò dalla mia presenza, pensai. E così, in uno slancio di determinazione ben sostenuto dall'orgoglio, altrimenti non ci sarei mai riuscito, mi alzai in piedi per salutarla. Già riparti? Mi chiese afferrando la mano che le avevo teso senza lasciarla. Dovrei restare? Aspetta che ritorni Arthur almeno. Contento di assecondare la sua richiesta, rimasi contro il lato opposto della finestra. Hai detto di non essere cambiato, mi disse, e invece lo sei. Non lo sono, signora Huntington, ma sono costretto a questo. Mi vedi come mi vedevi quando ci siamo separati l'ultima volta? Proprio così, ma trovo che sarebbe inopportuno discuterne ora. Era inopportuno discuterne allora, Gilbert. Ma adesso non più, a meno che non sia una violazione della verità. Mi sentii improvvisamente troppo in ansia per proferire parola, mentre lei girò il viso dall'altra parte, aprì la finestra e guardò di fuori, per nascondere gli occhi lucidi e le guance arrossate, e forse per calmare la sua agitazione e trovare sollievo dall'imbarazzo, o per cogliere quella rosa di Natale in boccio che si affacciava dalla neve, che fino a quel momento doveva averla protetta dal gelo e che ora si stava sciogliendo. La colse, infatti, scrollò dalle foglie la polvere di ghiaccio e la portò alle labbra. Questa rosa non profuma come un fiore estivo, ma ha resistito in condizioni che nessun altro fiore avrebbe sopportato. Si è accontentata della fredda pioggia invernale per nutrirsi e di un sole debole per scaldarsi. Il vento non l'ha sciupata, né ha spezzato il suo stelo. Il gelo non l'ha uccisa. Ecco, Gilbert, è fresca come può esserlo un qualsiasi altro fiore, pur con la neve ancora fredda sui suoi petali. Puoi accettarla? Allungai allora la mano, incapace di rispondere per paura che le emozioni mi travolgessero. Mi poggiò quella rosa sul palmo, ma io non la strinsi tra le dita, preso com'ero a pensare al significato delle sue parole e a cosa fosse o non fosse il caso di dire. Se liberare i miei pensieri o continuare a soffocarli. Helen prese il mio silenzio per indifferenza. Mi strappò la rosa di mano, la gettò nella neve e richiuse violentemente la finestra per tornare ad avvicinarsi al camino. Helen, che significa? Esclamai turbato dal suo comportamento. Non hai capito il mio dono, oppure peggio ancora non hai voluto accettarlo. Mi spiace di avertelo offerto, ma considerando che l'errore ormai era compiuto, non mi restava altro da fare che strappartelo di mano. Hai male interpretato il mio silenzio, dissi aprendo a mia volta la finestra per raccogliere il fiore. Portai dentro la rosa e gliela offrii, chiedendole di donarmela ancora e giurando che l'avrei tenuta per sempre in suo onore. Ti accontenterai di questo? Mi domandò prendendo la rosa. Sì, risposi. Ebbene, eccola. È tua. Me la premetti sulle labbra con passione e poi sul petto. La signora Huntington mi guardava, sorridendo sarcastica. Adesso te ne andrai? Se devo. Sei cambiato, disse ancora. Sei molto orgoglioso, oppure molto indifferente. Nessuna delle due cose, Helen, signora Huntington. Se solo vedeste il mio cuore. Di sicuro sei l'una o l'altra cosa, se non entrambe. E poi perché, signora Huntington, e non Helen come prima? Ebbene, Helen allora, Helen cara, dissi in preda a un tormentato miscuglio di amore, gioia, incertezza e speranza. Il fiore che ti ho donato era il mio cuore. Sapresti davvero portarlo via, lontano da qui, e lasciarmi da sola? Mi daresti anche la tua mano, se la chiedessi. Non è forse già chiaro? Rispose con un sorriso meraviglioso. Le presi la mano, stavo per baciargliela appassionatamente quando improvvisamente mi arrestai. Hai considerato le conseguenze? Non abbastanza, credo, altrimenti non avrei affidato il mio cuore a qualcuno così orgoglioso o indifferente da ritenere il suo affetto meno importante delle mie ricchezze terrene. Che stupido testone ero! Morivo dalla voglia di abbracciarla e ancora incredulo davanti a tanta felicità mi trattenevo dicendole «E se dovessi pentirtene? Sarebbe solo colpa tua, perché a meno che tu non mi deluda, io non mi pentirò di certo. E se non hai abbastanza fiducia nei miei sentimenti, allora lasciami pure». «Mio angelo, Helen, cara!» esclamai infine baciandole la mano con passione e cingendole la vita con il braccio sinistro. Non ti pentirai mai se dipende da me. Ma a tua zia hai pensato? Temevo così tanto quella risposta che la strinsi al petto ancora di più per la paura di perdere il mio tesoro appena ritrovato. La zia per il momento non lo saprà. Potrebbe considerarlo un gesto avventato, poiché non sa quanto ti conosco bene. Dovrà imparare a conoscerti a sua volta e ti apprezzerà. Devi andare via, subito dopo pranzo, e tornare in primavera. Resterai qui un po', passerete del tempo insieme e sono sicura che le piacerai. E poi sarai mia? Dissi dandole un bacio sulle labbra, poi un altro e un altro ancora, perché tanto ero stato riservato fino a poco prima, tanto ero diventato impetuoso. No, ancora un anno, mi disse sciogliendosi con dolcezza dalla mia stretta. Un altro anno, Helen, non posso aspettare ancora così tanto. E che ne è della tua fedeltà? Intendo dire che non potrei sopportare di starti lontano ancora tanto a lungo. Non saremo del tutto lontani. Potremo scriverci ogni giorno e vederci ogni tanto. Non desidero fingere di voler aspettare tanto io stessa, ma se il mio matrimonio dovrà essere qualcosa che fa piacere solo a me, voglio almeno consultarmi con i miei cari per decidere con loro quando sia meglio farlo. I tuoi cari disapproveranno. Non credere, Gilbert. Mi disse, baciandomi la mano con ardore. Non quando ti avranno conosciuto. E se disapprovassero, sarebbero allora meno cari di quanto credevo e non mi dispiacerebbe perderli. Ecco, ora sei felice? Mi chiese guardandomi con un'infinita tenerezza negli occhi. Come potrei non esserlo con questo amore nel cuore? E tu mi ami, Helen? Glielo domandai non perché ne dubitassi, ma perché volevo sentirglielo dire. Se tu mi amassi come ti amo io, non avresti rischiato di perdermi. Nessuno scrupolo di delicatezza o di orgoglio ti avrebbe trattenuto. Avresti visto chiaramente che le questioni di rango, ricchezza o fortuna non sono nulla sul piatto della bilancia rispetto all'affinità di pensieri e sentimenti, a due cuori e due anime che si amano davvero. Oh, non merito questa felicità, Helen. Quasi non riesco a crederci. E più passerà il tempo, e più vivrò nell'ansia che qualcosa possa rovinare tutto. Pensa solo a quante cose possono accadere in un anno. Perderò la salute per l'ansia e l'impazienza, e poi l'inverno è una stagione triste. Hai ragione, disse in tono serio, e non vorrei mai sposarmi in dicembre. Sicuramente ripensò con un brivido al fatto che quello era stato il mese del suo sfortunato matrimonio, ma anche della morte di suo marito. Quindi, diciamo un anno a partire dalla primavera. Facciamo la primavera prossima, allora. No, in autunno. Meglio l'estate. Va bene, per la fine dell'estate, ecco fatto. In quel momento entrò Arthur, che bravo era stato a trattenersi fuori dalla stanza tanto a lungo. Mamma, non ho trovato il libro in nessuno dei posti in cui mi avevi detto di cercarlo. La madre gli sorrise, come a dire, lo sapevo che non l'avresti trovato. Rachel però è riuscita a trovarlo. Ecco, signor Markham, guardate, è una storia naturale di tutti i tipi di uccelli e animali. Leggerlo è bello tanto quanto le figure. Mi sedetti a guardare il libro con lui allegramente, tirandomelo tra le ginocchia. Se fosse arrivato anche solo un minuto prima, non avrei avuto la stessa buona disposizione d'animo. Ma invece gli accarezzai la testa e gli stampai anche un bacio sulla fronte d'avorio. Era il figlio della mia Helen, e quindi mio, e tale l'ho considerato da quel momento in poi. Quel bambino è diventato un bel ragazzo, che ha riempito sua madre di orgoglio e ora vive a Grasdale Manor con sua moglie, la giovane Helen Hattersley, che ben conosceva. Eravamo arrivati a metà libro quando la signora Maxwell si affacciò per invitarmi a pranzo nella sala accanto. I suoi modi, tanto freddi sulle prime, mi raggelarono, ma feci del mio meglio per guadagnarmi i suoi favori e devo dire non invano. Già durante quel primo pranzo, insieme, infatti, il suo atteggiamento nei miei confronti si ammorbidì moltissimo, e quando mi congedai, espresse il desiderio che potessimo rivederci presto. Non potete andar via senza aver visto la serra, il giardino d'inverno di mia zia, disse Helen mentre mi preparavo a partire con il coraggio e il contegno che mi riusciva di trovare. Accolsi con gioia l'invito a questa breve proroga e la seguii nella serra. In effetti davvero ricca di fiori, considerando la stagione, anche se non era ai fiori che dedicavo le mie intenzioni. Eppure non era per romanticismo che la mia compagna mi aveva portato lì. Mia zia adora i fiori e adora Staningley. Ti ho portato qui per pregarti di una cosa, che finché vive questa resti sempre la sua casa e a meno che non sia anche la nostra io possa vederla spesso. Perché per quanto contemplativa e solitaria, tende a immalinconirsi molto se resta troppo tempo senza la compagnia di qualcuno. Ma certo, Helen, fai quel che desideri con i tuoi cari. Non mi verrebbe mai in mente di chiedere a tua zia di andarsene da qui. Noi vivremo con lei o da qualsiasi altra parte tu e lei riteniate opportuno e vi vedrete tutte le volte che vorrete. So quanto sarà triste all'idea di star lontana da te e voglio porvi rimedio come posso. Le voglio bene tramite te, e la sua felicità mi starà a cuore, quanto quella della mia stessa madre. Grazie, mio caro. Meriti un bacio per questo. E adesso va. Lasciami. Sta arrivando Arthur. Non sbalordire il suo piccolo cervello con la tua follia. È arrivato il momento di concludere questo mio racconto, poiché chiunque, eccetto te, lo troverebbe già sin troppo lungo. Aggiungerò qualche altra parola perché so che prenderai in simpatia la vecchia signora e vorrai sapere qualcosa in più su di lei. Tornai a Stanningley in primavera e, assecondando i desideri di Helen, feci del mio meglio per guadagnarmi il favore di sua zia. La signora mi accolse con cordialità e molto ben disposta a formarsi un'opinione positiva su di me, anche grazie ai racconti sin troppo generosi che le aveva fatto sua nipote. Io misi in luce il mio lato migliore e andammo più che d'accordo. Quando seppe quali erano le mie ambizioni, le accolse con molta più tranquillità di quanto mi aspettassi. Dopo avermi ascoltato, si limitò a dire: Dunque, signor Markham, vi porterete via mia nipote. Ebbene, prego che Dio protegga la vostra unione e che questa possa finalmente rendere felice la mia ragazza. Avrei preferito che si accontentasse di restare da sola, a dire il vero. Ma se proprio deve risposarsi, non mi verrebbe in mente nessuno tra le persone che conosco, in vita e dell'età giusta, a cui la affiderei più volentieri che a voi. Nessuno che sia più in grado di apprezzare le sue qualità e renderla felice. Quel complimento mi lusingò e sperai di poterle dimostrare col tempo che non si era sbagliata. Però avrei da farvi una richiesta, aggiunse. A quanto pare posso continuare a considerare Stanningley casa mia. E io vorrei che fosse anche la vostra. Helen è affezionata a questo luogo e a me, come di certo io a lei, e i ricordi legati a Grassdale sono troppo dolorosi perché possa tornarci. Da parte mia non vi sarò di alcun disturbo. Sono una persona discreta, resterò nelle mie stanze e mi occuperò delle mie faccende. Acconsentii subito e vivemmo in armonia con la nostra cara zia fino al giorno della sua morte, sopraggiunta di lì a qualche anno. Un evento triste non tanto per lei, che vi arrivò con serenità, quanto per i suoi cari amici e domestici affezionati. Tornando a me, dunque, mi sposai in estate, una bellissima mattina di agosto. Per vincere la diffidenza di mia madre nei confronti della sposa che avevo scelto e farle accettare il fatto che avrei lasciato Linden Car per trasferirmi così lontano, ci vollero tutti quegli 8 mesi. Oltre alla bontà e alla pazienza di Helen. Alla fine fu molto contenta per suo figlio e si rallegrò della sua fortuna attribuendola, naturalmente, alle sue qualità superiori. Lasciai la nostra fattoria nelle mani di Fergus, con prospettive migliori rispetto a un anno prima, dato che nel frattempo si era innamorato della figlia maggiore del vicario, una fanciulla d'animo nobile che aveva risvegliato in lui insospettabili virtù. Spingendolo a compiere incredibili sforzi non solo per conquistarla, ma anche per guadagnare il denaro sufficiente per poter chiedere la sua mano e soprattutto per esserne degno, non solo agli occhi dei genitori di lei, ma anche ai propri. Alla fine, come sai, ci riuscì. Tornando a me, non serve che ti dica quanto ci amiamo e quanto siamo felici, Helen e io, e quanto godiamo ancora della nostra reciproca compagnia, oltre che di quella dei giovani germogli che crescono attorno a noi. In questo momento stiamo aspettando il vostro arrivo, tuo e di Rose, che tra poco, come ogni anno, lascerete la vostra città rumorosa, polverosa e caotica, per trascorrere un periodo di meritato riposo e pace insieme a noi. Arrivederci a presto. Gilbert Markham, Stanningley, 10 giugno 1847. Fine.